le sentenze, per carità, si rispettano, ma come giurista mi sento di dissentire per questo motivo, cioè che la aggravante dell'intendimento terroristico è stata introdotta nel nostro codice penale proprio per rafforzare la lotta contro gli attentati delle Brigate Rosse di prima linea, insomma, nella stagione che ben conosciamo e che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle, ma non c'è nessun dubbio che il legislatore penale volesse colpire quel modo condurre la lotta armata da parte di queste organizzazioni. Quindi questo mutamento di orientamento della Cassazione mi sembra per un verso una forzatura e per altro verso un errore, perché è un abbassare la guardia rispetto a questo fenomeno che è sempre vivo.